Mercoledì 15 maggio alle 17.30 alla BA, nella Sala del Silenzio in Vicolo Bolognetti 2, verrà presentato un libro, Il mattino ai piedi scalzi, scritti di lotta politica e impegno civile, di Gabriele Giunchi. È un libro postumo, come sappiamo, perché purtroppo Gabriele ci ha lasciati così tragicamente l'estate scorsa, però appunto è un libro che raccoglie molti dei suoi scritti. Alla presentazione saranno presenti Gad Lerner, Elisa D'Orso e Guido Armellini, coordinati da Gianni Sofri, con cui siamo al telefono. E buongiorno, professor Sofri. Buongiorno. La famiglia, gli amici, insomma, non accettavano l'idea che Gabriele se ne andasse così senza lasciare una traccia, e quindi questo libro nasce in questo modo? Sì, in un certo senso nasce, certo, dalla pietas, diciamo, dei familiari e degli amici, di tantissimi amici. Quando Gabriele morì alla fine di luglio e poi il 3 agosto, noi facemmo una cosa che non era un funerale, ma era un saluto collettivo a Rocca di Bazzano, e lì nell'ampio cortile, l'ampio cortile era pieno di gente che veniva da ogni parte d'Italia, non soltanto da Bologna e nei paesi vicini a Bologna, cioè non soltanto le persone che lo vedevano più spesso, insomma. Per esempio venne Gad Lerner, che aveva lavorato con lui nella redazione di Lotta Continua quotidiano a Roma. Vennero altri, Carlo Ginzburg, che era tra un viaggio internazionale e l'altro per i suoi seminari, insomma. Venne Adriano, mio fratello, che fra l'altro poi parteciperà più in là a un'ulteriore presentazione del libro, e così via. E c'era molta commozione, e poi venimmo a sapere che c'erano degli scritti di Gabriele. Adesso io posso farne una breve descrizione. Questo volume è composto da tre parti, che però sono disuguali dal punto di vista quantitativo. La prima è che è quella che dà il titolo anche al volume, Il mattino ai piedi scalzi. È un lungo libro di memorie, nel senso che è stato scritto a distanza di tempo, già negli anni 2000, e riguarda invece un'esperienza politica in Lotta Continua, ma è contemporaneamente gli anni della vita militare di Gabriele Giunchi. Gabriele Giunchi faceva parte di una organizzazione di soldati che si chiamava PID, Proletari in Divisa, e che cercava di lottare per i diritti dei soldati in un periodo in cui questi diritti non erano molto salvaguardati. Credo che oggi la situazione sia molto cambiata. Non c'è più la leva obbligatoria, certamente. E questa organizzazione si occupò molto proprio anche di cose minime, insomma, che migliorassero la vita quotidiana, oltre che di diritti in un senso più ampio e più importante. Insomma, in generale queste iniziative venivano molto perseguitate, e per esempio il curriculum di Gabriele nella sua veste di militare militante era un curriculum vastissimo, perché io vi sono segnato qui i posti dove è andato a fare il militare. Allora, Imperia, ospedale militare di Bologna, Predappio, Mantova, Venezia, Piazza del Serchio, Novi Ligure, carcere di Peschiera, poi tribunale militare di Torino, Santa Maria Capovetere, carcere circondariale di Forlì, le Nuove di Torino, il carcere delle Nuove di Torino, che era uno dei peggiori d'Italia allora, adesso non c'è più. Quindi una specie di giro d'Italia raccontato con una grande ricchezza di capacità di racconto di fatterelli, episodi e di fatti anche più importanti e rilevanti, e molto spesso, malgrado si tratti di vicende spesso anche parecchio dolorose, raccontato con ironia. Una grande capacità di Gabriele era quest'ironia nel raccontare cose serie e, ripeto, dolorose. Questo è la prima parte del volume, che è proprio un'opera compiuta, che lui non aveva poi pensato di pubblicare o non aveva tentato di pubblicare, e che quindi qui viene pubblicata integralmente. Poi c'è una seconda parte che testimonia di una attività che Gabriele, insieme a Franco Morpurgo e ad altri, ebbero nei primi anni 80, nella prima metà degli anni 80, e che a Bologna era molto conosciuta, perché all'inizio fu guardata con sospetto, per esempio in giro, eccetera. Poi invece piacque ed era l'attività dei cosiddetti occhi dolci. Gli occhi dolci volevano giocare con la città, in qualche modo polemizzando di fatto con un eccesso di seriosità che la città e la politica anche nella città avevano avuto. Avevano delle iniziative più svariate, per esempio organizzavano dei viaggi su automobili, c'erano delle automobili che portavano il simbolo di un occhio dolce, un occhio invitante. Allora questo voleva dire che il proprietario di quell'automobile, il guidatore di quell'automobile, era disponibile a prendere a bordo chi cercasse qualcuno che lo accompagnasse in un breve viaggio. Altre attività erano per esempio l'organizzazione di luoghi dove ci fosse un'aria tanto buona da respirare, infatti era in collina che in genere andavano, e poi serena e con piacevole musica, non troppo gridata ma invece soffusa, e così insomma era un tentativo di diffondere l'amicizia, la simpatia reciproca, la piacevolezza, un mondo che, ecco, Gabriele diciamo che in qualche modo aveva già allora previsto l'andamento che il mondo stava prendendo allora, che il mondo e l'Italia per quanto ci riguarda in particolare, e cioè l'andare verso l'odio, il rancore, la cattiveria, tutte cose che vediamo oggi, no? E che sono poi anche legate al prevalere dei social, all'uso che se ne fa. I social sono uno strumento e come tale possono essere usati nei modi più svariati. Però Gabriele aveva previsto questo trionfo della cattiveria e aveva cercato di opporvisi. Questa è la seconda attività. La terza, che è una delle più interessanti della vita di Gabriele, è la sua attività in quanto esperto, forse lui lo rifiuterebbe, ma persona impegnata nel mondo della scuola. Attenzione, non era un pedagogista, era un bidello e poi un genitore, ma era una persona molto colta in maniera da autodidatta e molto intelligente e acuto, che ha seguito quindi il mondo della scuola, soprattutto della scuola primaria o della media inferiore, con grande attenzione e partecipazione. Una delle cose che a me fanno molto piacere è che in questa presentazione che ci sarà domani alla BA, alle 17.30 per l'appunto, oltre a personaggi come Gad Lerner o Armellini o Elisa D'Orso, che all'interno di quello che raccontavo prima, cioè degli occhi dolci, tenne per incarico di Gabriele un corso all'università, non ufficiale naturalmente, ma di grande successo. Ci sono delle fotografie che fanno vedere un'aula stracolma di lingua napoletana. Lei era una napoletana appassionata e divertì moltissimo il suo pubblico in questo modo. Ora, non ci saranno solo queste persone, ma ce ne sarà anche Lina, è una persona che oggi è psicologa, che è stata quello che noi chiamiamo per comodità una ex bambina in una scuola in cui c'era ed era bidello Gabriele. Quel giorno che Gabriele venne ricordato a Rocca di Bazzano, molti ex bambini, cioè molte persone che avevano avuto a che fare con lui, lo ricordarono in una maniera assolutamente commovente. Per esempio questa Leni Semprini, che ci sarà e racconterà delle cose sul rapporto di loro da bambini con Gabriele, ricorda che quando c'era una insegnante un po' agitata, che si sentiva che trattava male i bambini, Gabriele bussava alla porta, entrava e diceva: professoressa, la chiamano al telefono. Dopodiché la porta si richiudeva dietro questa professoressa che se ne andava e lui tirava fuori un violino e si metteva a suonare il violino per i bambini, in qualche modo calmandoli, tranquillizzandoli, non era successo nulla e loro si divertivano. E tutti quelli che sono stati con Gabriele bidello, tra virgolette, ricordano con grande commozione e grande piacere quegli anni e la convivenza di loro con questo grande, con questa persona grande, così diversa dagli altri grandi. E allora, insomma, per chi volesse approfondire, chi magari non abbia avuto, per ragioni anche anagrafiche, la possibilità di conoscere Gabriele, o anche i vecchi amici che vogliono così un ricordo, l'appuntamento è per il 15 maggio alle 17.30 a La Ba. Grazie mille, professor Sofri. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci.